Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia. Allora, l'America, o meglio, due delle principali industrie dell'auto americane, Chrysler e General Motors, hanno ottenuto, faremo sentire anche l'annuncio, le parole del presidente Bush, gli aiuti che dovrebbero traghettarle almeno fino al 2009, altrimenti il rischio era la bancarotta guidata, si ipotizzava nei giorni scorsi. Nel frattempo il petrolio va in picchiata, ossia cala a $33.4 il barile, e con tutto questo per quello che riguarda i futures in scadenza a gennaio, meno 4,3% il prezzo del petrolio, ma l'OPEC sta già pensando a questo punto a un'ulteriore riduzione della produzione. Anche a New York aveva aperto a 34, poi è sceso a $33.4. Possibili nuovi tagli della produzione il 19 gennaio, lo ha detto il presidente dell'OPEC oggi, Shakib Khalil, dopo quella da 2 milioni e 2 decisa due giorni fa. Non è un caso che i titoli peggiori in borsa oggi siano i petroliferi: Eni meno 4,3%, UbiBank meno 3,3%, Saipem meno 3%, come Fiat, Tenaris meno 2,90%, Banco Popolare meno 2%, e anche Banca Popolare di Milano meno 2%, Gruppo Espresso meno 1,8%, Parmalat meno 1,1%, e l'1% lo perde Mediobanca. Sul fronte opposto Prismian più 5,5%, Italcementi più 5%, Unicredit più 3,7%, Autogrill più 3%, Telecom più 2,2%, Pirelli più 1,5%, A2A più 1,5%, Fastweb più 1,5%, Buzzi Unicem più 1,3%, Alleanza più 1,2%. Complessivamente l'indice perde lo 0,6%, il MIBTEL, e mezzo punto anche l'S&P MIB, cali simili a Francoforte, meno 0,55%, Parigi meno 0,4%, Londra un po' meglio, meno 0,14%, Dow Jones guadagna l'1,3% e il Nasdaq l'1,9%. Chiaramente anche sulle borse americane influisce il pacchetto da $13.4 miliardi che il governo americano concederà attraverso il pacchetto complessivo da $700 miliardi, il piano, diciamo, anticrisi da $700 miliardi. Ecco, 13 miliardi e mezzo verranno presi da questo pacchetto per non far fallire General Motors e Chrysler. Nel caso specifico GM riceverà 9 miliardi e mezzo, 4 miliardi verranno dati alla Chrysler e a GM e Chrysler, altri 4 miliardi arriveranno poi a febbraio. Se però sia General Motors che Chrysler non dimostreranno una sostenibilità finanziaria entro il 31 marzo, il prestito verrà tolto, e poi limiti per i compensi ai manager per le due società. Insomma, stiamo già entrando nei temi di questa puntata: dati sulla produzione, sugli ordinativi e il fatturato dell'industria italiana da un lato, export italiano, pacchetto d'aiuti al settore auto e poi prezzo del petrolio. Questi temi. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Tra l'altro il presidente americano Bush ha detto che con la decisione presa oggi la sua amministrazione non vuole lasciare al prossimo presidente Barack Obama la patata bollente del settore auto, e ha anche precisato che comunque la bancarotta assistita non avrebbe funzionato. Anche Putin ha annunciato misure a sostegno del Made in Russia, 1.750 milioni di euro di aiuti alle imprese russe in Germania. Secondo quanto scrive oggi il settimanale Spiegel, ci sarebbe un nuovo piano di stimolo all'economia da €40 miliardi. E passiamo all'Italia. Sono stati chiusi ufficialmente, questa è una buona notizia, anche se poi il passante di Mestre sarà operativo da febbraio, ma insomma sono stati chiusi ufficialmente oggi i cantieri di costruzione del passante di Mestre, opera insomma, per chi avesse mai fatto l'autostrada Torino-Trieste, fondamentale, lo snodo di Venezia, 32 km di autostrada che saltano appunto il nodo di Mestre della A4. Oggi la chiusura ufficiale dei lavori l'ha fatta il presidente del Veneto Giancarlo Galan, che tra l'altro ha chiarito poi anche quando sarà aperta l'inaugurazione vera e propria, sarà il prossimo 3 febbraio, l'apertura al traffico l'8 febbraio. Ascoltiamo Galan al microfono della nostra Silva Menetto. Devo ringraziare il governo Berlusconi, ma anche chi non si è opposto dopo, perché io onestamente devo dire che anche dal governo successivo non ho avuto ostacoli, francamente va detto. Però ricordiamoci che questi sono soldi dei veneti, andati nelle casse dello Stato e da quel governo restituiti alla nostra terra. Io credo che la legge speciale per Venezia debba essere rifinanziata, ma non è solo un problema del comune di Venezia, che fra l'altro ha enormi risorse che forse non utilizza al meglio. Va finanziata per continuare quell'opera complessiva di salvaguardia della laguna e della città che è affidata a comune, ma anche a provincia e anche a regione. Quindi in questo caso farete fronte comune per la legge speciale? L'abbiamo sempre fatto, al di là delle isterie momentanee del sindaco. Però aggiungo una cosa. Da parte del comune ci deve essere un atteggiamento, l'ho richiesto esplicitamente. Non si possono chiedere soldi e continuare ad opporsi all'opera principale di salvaguardia, cioè al MOS. Restiamo in Italia. Oggi, durante la presentazione delle nuove uniformi della Guardia di Finanza, il comandante generale Cosimo D'Arrigo ha anche fatto il punto sulla lotta all'evasione. Redditi non dichiarati per 27 miliardi e mezzo di euro e oltre 6.400 evasori completamente sconosciuti del fisco. Scoperti nel 2008, denunciate per frode 7.400 persone, il 45% in più. 582 milioni di patrimoni e capitali sequestrati, e poi il dato su mediamente 10 negozianti su 100 negozianti controllati, cioè il 10%, hanno compiuto una violazione delle norme, sostanzialmente l'obbligo di esporre al pubblico i prezzi di offerta delle merci colpisce 1 su 10, e comunque 16.000 i controlli effettuati nel 2008 dalla Guardia di Finanza. Dopo l'iniziativa che abbiamo raccontato ieri di un imprenditore veneto, da un lato, che aveva deciso sua sponte autonomamente di detassare le tredicesime, oggi lo ha fatto anche il presidente della Confindustria di Macerata. Germano Ercoli ha deciso di fare da solo, detassando la tredicesima mensilità dei suoi 260 dipendenti che lavorano nelle due aziende calzaturiere, e gli operai si sono trovati 350 euro in busta paga in più. C'è un settore che lamenta un alto costo di questa crisi, il settore agricolo. Oggi il presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni, ha lanciato un appello al ministro Tremonti. Tra previdenza, fondi di solidarietà nazionale, ICI, ritardi nei pagamenti dell'AGEA, potrebbe gravare sul settore, ha detto Vecchioni, una spesa da 1.300 milioni di euro. La conferenza stampa di oggi va nella direzione di rivolgere un appello al ministro Tremonti affinché ci sia nei confronti dell'agricoltura medesima attenzione, dando anche delle proposte circa un'ipotesi di detassazione del sistema agricolo, di abbattimento temporaneo, direi totale, degli oneri sul costo del lavoro e quindi di misure nazionali che non prevedano un'imposizione aggiuntiva come quella dell'ICI e di misure come quelle sul costo del lavoro che vedono nella conferma delle fiscalizzazioni della legge Alemanno una possibilità di stabilizzazione degli oneri sul lavoro in tutta Italia, non solo nel sud Italia. L'agricoltura per tanti anni considerata sostituibile e delegabile rappresenta un settore di forza del paese. Il dato è che tra previdenza, fondo di solidarietà nazionale, ICI ed eventuali ritardi dovuti ai pagamenti AGEA e quindi maggiori oneri pagati dalle imprese sul credito, inclusi dei tassi che necessariamente le imprese si troverebbero a pagare perché dovrebbero andare in anticipo sui pagamenti PAC, sul settore agricolo potrebbero gravare oltre il miliardo e 300 milioni di euro. Allora, restiamo in Italia, una precisazione che ci scrive, no, le infrazioni dei negozi non riguardavano in questo caso l'evasione, attenzione, il 10 negozi su 100 riguardava chi non applicava le norme previste dalla legge sui prezzi al consumo, per cui soprattutto in primo luogo diciamo il cartellino corretto, l'obbligo di esporre i prezzi nei negozi in vendita, non era un dato sull'evasione. Ma andiamo avanti, perché oggi è arrivata dall'Istat anche la fotografia del fatturato della nostra impresa e anche degli ordinativi. Meno 6% il fatturato, meno 12,2% gli ordinativi industriali. Il dato peggiore dal 2001 ce lo racconta questa scheda. Se fino a settembre esportazioni, ordini e fatturato avevano in qualche modo retto all'impatto della crisi globale, con l'arrivo di ottobre tutti gli indicatori hanno contemporaneamente girato verso il basso. La produzione è scesa del 6,9%, le esportazioni sono calate dell'1,3% e oggi l'Istat ha completato il quadro con i pessimi dati su ordini e fatturato. Per gli ordini si è trattato di un vero e proprio crollo, il più forte da 7 anni, che allunga le ombre della crisi sui mesi a venire. Accresce le preoccupazioni il fatto che i più colpiti siano due settori chiave della nostra industria. Da un lato la meccanica, che ha accusato un meno 19%, e dall'altro l'industria automobilistica, che ha registrato addirittura un meno 27%. A pagare duramente la crisi sono stati però anche il tessile e abbigliamento, meno 17%, l'industria di pelli e calzature, meno 13%, e i mobilifici, meno 7,6%. Hanno invece in parte retto l'urto, la chimica e la siderurgia, con flessioni nel valore degli ordini, rispettivamente dell'1 e del 3%. Va solo un po' meglio per il fatturato e anche in questo caso i settori che più soffrono sono l'automobile, meno 14%, la meccanica, meno 10%, e il tessile e abbigliamento, meno 12%. Il valore delle fatture emesse è poi sceso poco meno del 10% per pelli e calzature e industria del legno. Resistono viceversa la chimica e soprattutto l'industria alimentare, l'unica ad aver registrato un incremento del fatturato, salito lo scorso ottobre dell'1,5%. Vabbè, non poteva andare diversamente, è inutile, insomma, immaginare dati diversi, ottobre, novembre, saranno mesi così, e abbiamo già visto un brutto dato sulla produzione industriale, per cui il fatturato e gli ordinativi purtroppo non potevano andare molto diversamente. Un altro dato che è uscito a ottobre riguarda le esportazioni, è un dato insomma che vede ridursi il nostro avanzo commerciale. L'esportazione, abbiamo detto spesso, è stata nel 2007 e 2006 il vero motore, e sono stati il vero motore della nostra ripresa economica. Ne parliamo allora con Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera professore. Buonasera. Interscambio complessivo dell'Italia, quindi sia fuori dall'Europa che dentro l'Europa, a ottobre meno 74 milioni, l'anno scorso era più 461 milioni. Le esportazioni hanno fatto meno 1,3% e le importazioni hanno fatto un più 0,3%. I settori più in sofferenza: meccanica meno 3% sull'export, mezzi di trasporto meno 5%, tessile abbigliamento meno 4%, mobili meno 6%, alimentari invece più 4%, calzature tengono con un meno 1%. La cosa, professor Fortis, che a me risulta più evidente è che se andiamo a dividere questi dati tra export verso l'Europa e export fuori dall'Europa, il calo più brusco è dentro l'Europa, cioè noi siamo passati da un attivo di 767 milioni a ottobre del 2007 a un attivo di 290 milioni a ottobre del 2008, quasi 500 milioni in meno dentro l'Europa. Mentre sull'export fuori dall'Europa c'è stata una riduzione da 380 a 306, ma insomma più contenuta, 70 milioni. Per cui il grosso dell'aumento del nostro deficit commerciale è collegabile all'Europa. Vorrei intanto una sua prima analisi su questo. Innanzitutto bisogna considerare che i dati mensili vanno sempre valutati con molta cautela, perché spesso sono oggetto anche di oscillazioni piuttosto brusche che dipendono magari da fattori anche occasionali. Se guardiamo al complesso dei primi 10 mesi di quest'anno, possiamo notare che l'export ha tenuto molto bene sia verso i paesi extra UE che sono andati più forte che con quelli stessi della UE perlomeno fino a settembre. Poi a ottobre c'è stato improvvisamente la caduta dell'export, anche in conseguenza con lo scoppio della crisi mondiale. Abbiamo avuto una maggiore resistenza ancora dell'export verso i paesi extra UE ad ottobre, perché c'erano degli ordinativi di lunga data che continuavano ad operare positivamente. Invece è stata più forte la crisi dell'export verso i paesi della UE, perché qui abbiamo avuto, accanto alle già lunghe crisi di mercati come la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Spagna, si sono associate anche le cadute dell'export verso Germania e Francia, che sono i nostri altri grandi mercati nell'Unione Europea. Han tenuto proprio solo alcuni paesi della cintura dell'Est Europa aderenti alla UE, che fino all'ultimo, anche ad ottobre, hanno mostrato qualche segnale di crescita, ma è chiaro che c'è un'inversione di tendenza con ottobre. Lei ritiene che a questo punto, visto che insomma, la frenata europea è evidente soprattutto in Gran Bretagna, ma anche in Germania, in Spagna, un po' meno in Francia, novembre andrà su questa falsa riga, quindi andrà via via peggiorando il nostro attivo nella bilancia commerciale? Io penso che dobbiamo abituarci ad un calo sostenuto delle esportazioni nel corso dei prossimi mesi, non soltanto nei restanti mesi del 2008, ma anche nel primo semestre del 2009. È inevitabile che vi sia un calo dell'export, perché la domanda sia di consumo privato che degli investimenti in tutti i paesi del mondo sta calando fortemente, quindi esportare diventa difficilissimo. Vorrei ricordare che l'Istituto IFO di Monaco una settimana fa è uscito con delle previsioni sul PIL della Germania che scontano un calo in volume del 5,7% delle esportazioni di beni e servizi della Germania, che come sappiamo è il paese più competitivo del mondo. Quindi dobbiamo abituarci all'idea che persino i paesi più competitivi sconteranno cali dell'export molto consistenti nei prossimi mesi. Questo non vuol dire però che non si chiuderà positivamente il 2008, perché io prevedo che il surplus manifatturiero si attesterà in un intorno tra i 55 e i 60 miliardi di euro, quindi polverizzando quello che è stato il record storico del 96, che fu di 54 miliardi. Tra i settori che citavo, professor Fortis, come andamento, qual è quello, secondo lei, che mezzi di trasporto, cioè la crisi dell'auto non è che sia una cosa solo italiana, però abbiamo visto le calzature fare un meno 1,3, quindi tutto sommato in linea, peggio gli alimentari fare un più 4%, peggio i mobili, meno 6,5, l'elettronica appunto meno 6,5, tessile, abbigliamento meno 4. Tra l'altro però, se guardiamo i paesi, il Giappone ha fatto un più 5%, la Russia tiene, i paesi OPEC più 11, le nostre esportazioni verso la Cina invece hanno fatto un meno 9, verso la Spagna un meno 21%, un meno 10 verso sia Gran Bretagna che Stati Uniti. Tengono ancora invece le esportazioni verso Germania e Francia, meno 1,6 la Germania, meno 2,1 verso la Francia. Professor Fortis. Diciamo che i mercati legati all'energia, come la Russia, come i paesi arabi, hanno tenuto proprio fino all'ultimo, perché sono mercati in cui si sono accumulati ingenti risorse in questi anni, quindi questi paesi spendono, investono e i consumi privati anche sono cresciuti, quindi questi mercati sono stati proprio quelli che hanno tenuto più a lungo per quanto riguarda le nostre esportazioni. Anche i Balcani hanno tenuto abbastanza bene. Tuttavia io prevedo che nei prossimi mesi vi sarà un calo generalizzato che non potrà non interessare anche la Russia stessa, che già ha mostrato qualche indebolimento anche per quanto riguarda i piani di investimento che questo paese ha rallentato ovviamente nel pieno della crisi finanziaria. L'aspetto però forse più paradossale di questa situazione è che, venendo a calare così fortemente il prezzo del petrolio, potrebbe anche succedere, almeno per quanto riguarda i dati in valore, che il nostro interscambio con l'estero in termini di bilancia netta con l'estero non peggiorerà tanto nei prossimi mesi. Perché? Perché da un lato esporteremo di meno, ma importeremo anche in valore materie prime in misura inferiore, importeremo anche meno semilavorati e soprattutto la bilancia e la bolletta energetica si ridurrà come peso. Quindi potrebbe paradossalmente succedere che nel primo semestre la nostra bilancia commerciale non peggiori più di tanto, forse addirittura certo, possa migliorare. E quindi non per effetto di un aumento delle esportazioni, che sarebbe la cosa migliore, la cosa più augurabile, ma semplicemente perché diminuiscono le importazioni in valore, perché il prezzo del petrolio è basso, sicuramente basso rispetto alla prima metà del 2008, e quindi paghiamo di meno in tutte le materie energetiche che importiamo, se ho ben capito. Proprio così, diciamo che contabilmente potrebbe esserci o una stabilità o addirittura persino un miglioramento. Questo non significa però che le nostre imprese facciano salti di gioia, perché ovviamente si ridurranno in maniera consistente le esportazioni e ciò avrà effetto sui fatturati e anche sulle tensioni occupazionali che la nostra economia manifatturiera sarà costretta a sopportare nei prossimi mesi. Grazie a Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison. A voi buonasera. E adesso, anzi, dopo il meteo, come sempre, la borsa, meno 0,5% Milano e anche Parigi, meno 0,80% Francoforte. Ma devo dire, insomma, la buona notizia di oggi è un petrolio che, nonostante i tentativi dei paesi produttori, continua a scivolare sotto i 40 dollari. Ci mancherebbe anche con questa crisi in corso avere un petrolio a 70, 80, 100 dollari. Siamo a 37, è sceso fino a 37, 30. Molti di voi chiedono come va l'euro, avete ragione, oggi non l'ho dato. Ha ritracciato parecchio nei confronti del dollaro, è arrivato fino a 1,42, 1,43, adesso è 1,38,7, resta invece molto forte nei confronti della sterlina britannica, 93 pence. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa adesso e poi anche il resto, ossia il piano americano di aiuto a Chrysler e General Motors. È appena uscita un'agenzia che però vi leggo. Il caso Fortis, alcuni di voi lo ricorderanno, cioè quindi l'esposizione del gruppo belga Fortis, ha portato alle dimissioni del ministro della giustizia belga, che si chiama vedo adesso l'agenzia meglio. Dopo le dimissioni del ministro della giustizia Jo van der Rosen, il presidente del consiglio belga Yves Leterme ha proposto la dimissione di tutto il governo. Ecco l'elemento in più e nuovo come conseguenza del crack, dell'esposizione del gruppo bancario Fortis. Scusatemi un po' di imprecisione, ma le agenzie stanno uscendo in questo momento in questo momento vedo un'altra agenzia che dice il primo ministro belga Leterme è accusato di aver cercato di influenzare la corte belga per ottenere una sentenza diversa da quella che ha congelato la cessione di Fortis da parte del governo belga al gruppo francese BNP Paribas. Cioè, se ho ben capito l'agenzia, il primo ministro belga avrebbe fatto pressione sulla corte per fare in modo che Fortis venisse venduta al gruppo francese BNP Paribas, e si va verso le dimissioni del governo a questo punto, la crisi di governo. Va bene, adesso però i mercati finanziari. Ci mancava solo in Belgio solo le dimissioni per la vicenda Fortis. Prismian più 10%, Buzzi Unicem più 6,3%, Atlantia più 6%, Italcementi più 5,80% come Autogrill, il 5,2% lo guadagna Intesa, il 4,6% Unipol e anche Unicredito. Mondadori più 4,2%, Finmeccanica più 4%, Alleanza più 3,2%, Monte dei Paschi più 3%, Seat più 2,2%, Generali più 2,2%, Terna più 1,90%. Perde alla fine, chiude sui minimi Eni, meno 7,5% a 16,6 euro, Saipem meno 4 a 11,48 euro, poi Fiat meno 3,7, Ubibanca meno 3,6, Tenaris meno 3,4, Fondiaria meno 3,1, la Banca Popolare di Milano perde il 2,4, Parmalat il 2%, Mediobanca l'1,5, i migliori e i peggiori. Dunque, Cell Therapeutics meno 10,9, iFeel sugli ordinari meno 8,5, BNP Paribas meno 7,8, Actelios meno 8%, Carrefour meno 7,80. Sul fronte opposto molto molto bene il credito valtellinese più 14,7% e poi il Banco di Desio più 10,4%, Buzzi Unicem più 6,3%. Andiamo subito a commentare i mercati con Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, fammi capire una cosa. Fiat è in calo nonostante l'America, mercati ancora aperti, abbia dato via libera all'amministrazione Bush al piano da oltre 13 miliardi di dollari per salvare le case automobilistiche General Motors e Chrysler. Non è che vi sia una diretta conseguenza, un diretto legame, però si poteva immaginare una reazione diversa del mercato. Sì, si poteva immaginare una reazione diversa, però in realtà il comportamento di Fiat, che oggi ha perso il 3,72%, è un po' in linea con quello che hanno fatto tutti i costruttori europei, che nella maggior parte dei casi hanno tutti perso fra i 2 e i 3 punti percentuali, a cominciare da BMW, a Peugeot, a Renault. Diciamo che si spiega un po' andando a leggere forse nelle righe del piano, perché è vero che il Tesoro degli Stati Uniti erogherà finanziamenti per 13,4 miliardi di dollari, più una seconda tranche da 4 miliardi, però diciamo che è un piano con molte rigidità quello appena approvato. Per il settore auto europeo, che diciamo si aspettava un piano in qualche modo più semplice che potesse essere tradotto anche in Europa, forse diciamo che le attese sono un po' venute meno le attese che la Commissione europea e l'Europa possa fare un piano di sostegno al settore auto sul modello americano. Sì, tra l'altro il commissario europeo competente ha detto: attenzione, noi potremmo far passare un piano di aiuti al settore auto solo se fosse rivolto alle auto ecologiche, alle auto ibride, auto a minori emissioni di gas nocivi. È una linea personalmente che si può anche comprendere, altrimenti sarebbe, diciamo, un discrimine tra un settore industriale e un altro. Andiamo avanti con i titoli. Che è successo al credito valtellinese, per inciso? Il credito valtellinese, diciamo che ieri ha aggiornato i target che sono piaciuti molto al mercato, e si spiega così il fatto che oggi abbia guadagnato quasi il 10%. Un rialzo, un balzo notevole. Eni, immagino, diciamocelo se c'è altro, approfondiamo, immagino che risente in maniera consistente, significativa comunque di questo prezzo del petrolio, che nonostante i timori dei poveri paesi produttori, insomma, non ne vuol sapere di andare a 40, a 80 dollari come vorrebbero loro, anzi è sceso a 33,4. Sì, appunto, oggi Eni ha perso il 7,47%. Le preoccupazioni sono sempre quelle legate a un prezzo del greggio particolarmente basso. Oggi è stato, diciamo, lo stesso amministratore delegato del gruppo, Paolo Scaroni, che ha dovuto riconoscere che per quanto un prezzo del greggio sui 30 dollari, in realtà poi oggi era un attimino più alto, però un prezzo di 30 dollari al barile non è drammaticamente basso, anche se ha dovuto riconoscere che quotazioni attorno ai 60-70 dollari andrebbero molto meglio. E al titolo, per risollevarsi, diciamo, non è bastato nemmeno l'ennesimo annuncio che arriva da parte dei libici, che oggi hanno riferito di aver già iniziato a comprare azioni Eni, ma insomma nemmeno questa notizia è bastata a riportare Eni al rialzo, ecco. Al rialzo, sì. Poi per quello che riguarda i paesi produttori invece, quindi i paesi OPEC, alcuni di voi dicono: ma insomma, immaginiamo se in altri settori, per esempio quello auto, si mettessero d'accordo tutti i paesi produttori per tagliare la produzione per aumentare il prezzo. Sì, sarebbe il cartello. È vero, sappiamo anche che il prodotto petrolifero non si muove come altri settori industriali, c'è un leggerissimo vincolo geografico tra chi il petrolio ce l'ha e chi invece non ce l'ha, e questo sfasa tutto il mercato. Non è come un settore industriale in cui uno può creare un'impresa e allora è giusto che non vi siano cartelli, che vi sia libera concorrenza, e si può regolamentare questo. È difficile regolamentare quando il petrolio è collocato solo in alcune aree geografiche in maniera massiccia in quelle aree. Andiamo avanti con i titoli. I bancari oggi sono abbastanza misti. La Popolare di Milano perde il 2,4, Fondiari al 3,1, Mediobanca all'1,5, il Banco Popolare meno 0,7%, mentre dicevamo di alcuni, diciamo di soprattutto di Unicredito, che ha fatto questo balzo del 12%. Sì, è stato un balzo oltretutto solo nel finale, perché appunto fino a pochi minuti prima della chiusura ancora stava salendo dell'ordine del 3-4%, e oltretutto in mattinata aveva addirittura perso terreno. Diciamo che ieri Unicredit ha aggiornato il suo piano, ha detto che l'utile consolidato per il 2008 sarà di circa 4 miliardi contro il 4,6 che si attendevano gli analisti, anche se poi ha confermato insomma di voler raggiungere un core tier 1 del 6,7%. C'è anche molta speculazione in questa fase su Unicredit, che d'altra parte aveva perso molto. Si torna a parlare di un possibile abbandono dell'amministratore delegato Profumo, e questo in qualche modo genera tensione sul titolo. Va comunque ricordato che Rampl, il presidente, sia ieri che ancora oggi ha detto che Profumo resta nella banca. Fiducia gli è stata confermata praticamente da tutti i soci, sia lui che al management. Comunque, insomma, questi rumor stanno incidendo sul titolo. Sì, incidendo in maniera positiva, devo dire, oggi più 12%. Come tu ricordavi, uno strappo nel finale. Sì. Non vorrei che ci fosse sotto qualcos'altro, perché quando vediamo strappi così forti in finale di contrattazione, delle volte un motivo c'è. Ancora le generali oggi abbastanza in altalena. Non è che ieri il mercato avesse granché reagito al fatto che le generali nel 2009 non riusciranno a mantenere gli obiettivi. Oggi addirittura le premia, sì, dico con favore, più 2,2%, 19,94. Sì, questo, diciamo che il fatto che siano premiate è arrivato anche dopo che sono stati analizzati meglio i dati, anche le banche d'affari hanno fatto le loro analisi, quasi tutti hanno sostanzialmente confermato obiettivi di prezzo attorno ai 23-24 euro, e per quello che riguarda il dividendo comunque si attendono ancora una cedola di 0,72 euro nel 2008, per poi ricominciare a crescere sperando che la crisi finisca, e per cui attorno a un euro di utile di dividendo nel 2009. Ecco. Ancora Enel e Terna, dunque ci attendiamo notizie sul prezzo dall'Authority per l'energia elettrica sulle nuove bollette, le attendiamo dopo le 18, e quindi penso e spero saremo in grado di darle in diretta durante questo programma, se no durante il GR di Radio 24. E ci atteniamo notizie anche dell'eventuale scambio di pacchetto tra Enel e Terna. Che cosa c'è in ballo, Guido? Sostanzialmente appunto in ballo c'è la cessione a Terna della rete ad alta tensione di Enel. L'accordo insomma dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, dovrebbe essere comunicato diciamo dopo le 18 a minuti. Sì, appunto si parla di una valorizzazione dell'asset per 1,5 miliardi della rete. Oggi entrambi i titoli sono andati abbastanza bene. Guarda, ti interrompo perché è uscita adesso l'agenzia, per cui lo possiamo dire, in realtà era un comunicato atteso. Enel ha ceduto a Terna la quota residua della rete elettrica ad alta tensione per un valore di circa 1 miliardo e 100 milioni, non 1 miliardo e 2 come preventivamente detto. Quindi la notizia che doveva arrivare dopo le 18 è arrivata un po' prima. Allora, di nuovo in diretta con Focus Economia. Stavamo giusto attendendo la notizia che poi è arrivata sia della cessione di Enel a Terna, di quello che mancava, dei tralicci, dell'alta tensione, 1.115.000.000 di euro, sia delle bollette. Allora, oggi una buona notizia, quasi quasi se avessimo il gallo ancora lo farei sentire dopo settimane intere di gufo. Una buona notizia c'è e riguarda le tariffe, perché oggi l'Authority per l'energia, oggi, qualche secondo fa, ha detto meno 5% la luce e meno 1% il gas da gennaio, con un impatto di 36 euro a famiglia su base annua. E poi da gennaio anche un forte calo per il GPL distribuito in rete, meno 14%, con una minore spesa di 115 euro. E questa è la prima parte. E poi arriveranno ulteriori cali, lo ha detto il presidente dell'Authority per l'energia elettrica, e mi riferisco ad Alessandro Ortis. Poi le famiglie meno abbienti potranno beneficiare nel 2009 anche del bonus per l'energia elettrica e per il gas, con riduzioni aggiuntive del 15%. Comunque, meno 5% la bolletta dal 1 gennaio e meno 1% il gas. Tante settimane che non sentivamo il gallo, e vabbè, e va bene, adesso però non facciamoci prendere la mano, va bene anche il gallo, scusami ti ho interrotto Guido, ascoltiamo però, visto che siamo in grado, con una tempestività che ci fa piacere, di far ascoltare anche le parole di Fulvio Conti, il numero uno dell'Enel, all'annuncio della cessione di quello che mancava della rete elettrica a Terna. L'Enel incasserà 1.115.000.000 di euro. Un accordo fatto e verrà completato nei prossimi mesi dopo tutte le autorizzazioni che dovremo ricevere, che penso saranno sicuramente ottenute. È un buon incasso per noi, 1.200.000.000 diretto per la cessione di questo asset alla società Terna, più 300.000.000 che rimangono acquisiti a noi per il maggior valore delle efficienze create nel corso degli anni. Quindi questo incasso contribuirà a gestire in maniera adeguata il nostro livello di indebitamento, riportandolo all'interno di un sistema di disciplina finanziaria che credo sia importante consegnare ai nostri azionisti e ai nostri obbligazionisti. Quindi Guido, accordo concluso, e i titoli si erano mossi in maniera anche abbastanza consistente oggi in borsa, ma c'era molta attesa appunto per questa cessione nell'aria da tempo, e soprattutto Terna si era mossa nei giorni scorsi. Terna ha chiuso in rialzo dell'1,90% alla fine della seduta. Guido. Sì, appunto, Terna si è mossa in rialzo, diciamo, per tutta la giornata. Alla fine è arrivata a guadagnare l'1,89%. Enel, che comunque si era mossa bene, ha chiuso in realtà leggermente negativa, praticamente piatta, meno 0,06%. Intanto, se vuoi, è arrivato anche un altro aggiornamento, diciamo, su Unicredit. Prima ci dicevamo di questa mossa finale, questo rialzo finale, in realtà sembra dovuto a un pacchetto di 52.000.000 di pezzi che sono andati scambiati proprio in asta di chiusura a 1,78 euro, ed è questo che ha fatto, diciamo, fare questo boom al titolo sul finale. Chissà chi se li ha comprati, poi se sapessimo anche quanto valgono complessivamente sul capitale, ma insomma, vedremo di aggiornarvi dopo su questo. Ecco perché il botto finale, Unicredit ha chiuso in rialzo del 12% a 1,78 euro, appunto il prezzo di questo grosso pacchetto di titoli. Grazie a Guido Maurino di Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso ascoltiamo anche, visto che siamo in grado, il commento a questa operazione tra Enel e Terna, il commento del numero uno invece di Terna, ossia l'amministratore delegato Flavio Cattaneo. È importante non solo per Terna ma per il paese. Ora Terna controlla altri 20.000 chilometri di rete, è in grado quindi di assicurare più sviluppo e più sicurezza al paese. per noi significa diventare fra i primi 10 il settimo gruppo a livello mondiale, il primo in Europa in termini di asset gestiti e creare valore per i nostri azionisti. Terna già aveva in passato la manutenzione di questa rete, per cui oggi, essendo l'unico referente, riuscirà meglio a controllare i flussi di energia in Italia e dall'estero verso l'Italia. Allora, chiuso anche il capitolo energia oltre a quello borsa, adesso ci spostiamo sull'altra grossa notizia di questa giornata. 13 miliardi e 400 milioni di dollari, tanto varrà il pacchetto di salvataggio dell'industria automobilistica americana, oggi annunciato dal presidente Bush, la concessione di un prestito a breve termine. Questi soldi verranno presi dal pacchetto complessivo delle misure anticrisi da 700 miliardi. E poi altri 4 miliardi saranno stanziati a febbraio, sempre per General Motors e Chrysler. Le due case avevano chiesto 14 miliardi complessivamente fino a marzo. 9 miliardi e mezzo andranno a General Motors, 4 miliardi andranno a Chrysler e da oggi i 30 impianti di Chrysler saranno chiusi per almeno un mese. Allora, vi faremo ascoltare dopo il GR quanto ha dichiarato il presidente Bush, che ha detto tra l'altro: non volevo lasciare una patata bollente a Barack Obama. Saluto però intanto, per averci raggiunto in collegamento, Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo un minuto per un commento, poi riprendiamo tutto dopo il GR delle 18. Ma insomma, mi sembra di capire che Ford non ha chiesto nulla e che in questo modo fino a marzo GM e Chrysler respireranno. Beh, diciamo che in effetti quello che hai detto tu sulla patata bollente è vero in parte. Di fatto questo piano è un piano temporaneo che trasferisce comunque la patata bollente a Obama, garantendo alle due aziende che hanno chiesto i fondi, appunto General Motors e Chrysler, 1-2-3 mesi di respiro nei quali dovranno lavorare su un piano di ristrutturazione che in sostanza è quello che avevano già presentato al Congresso 15 anni fa per avere gli aiuti poi bocciati dal Senato americano, e che dovrà prevedere nuovi tagli all'organico, tagli agli stipendi dei manager, riduzione drastica del numero di marchi e probabilmente a medio termine anche una fusione tra le due aziende o comunque un modo per risolvere per altra via il destino della Chrysler, che sembra ormai segnato. Ecco, quello che né Bush né Barack Obama vogliono, e soprattutto Obama a questo punto, è dare dei soldi a un settore come quello dell'auto per poi ritrovarsi con gli stessi problemi fra 2 anni, 3 anni con la prossima crisi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo approfondendo il pacchetto di aiuti che oggi la Casa Bianca ha varato per l'industria auto americana: 9 miliardi e mezzo a General Motors, 4 miliardi a Chrysler, 13 miliardi e mezzo complessivamente, e poi altri 4 miliardi verranno stanziati a febbraio, per un totale quindi di 17 miliardi e mezzo. Andrea Malani in collegamento con noi, sentiamo l'annuncio di George W. Bush di questo pacchetto. For years, America's automakers have faced serious challenges. Per molti anni l'industria americana dell'auto ha affrontato sfide molto serie, ma la crisi finanziaria di questi ultimi mesi ha reso queste sfide ancora più gravi. Se lasciassimo agire i meccanismi del libero mercato, questo porterebbe quasi certamente alla bancarotta disordinata e alla liquidazione delle case automobilistiche. In circostanze normali, direi che questo è il prezzo che società in gravi difficoltà devono pagare. E non sarei intervenuto per evitarne il fallimento. Ma non stiamo vivendo in circostanze normali. Siamo nel mezzo di una crisi finanziaria e di una recessione. Lasciar fallire l'industria dell'auto non sarebbe un'azione responsabile. Alla luce dello stato attuale della nostra economia, la procedura Chapter 11 non funzionerebbe in questo momento. Il fallimento del settore auto sarebbe un colpo doloroso e inaccettabile per gli americani che lavorano sodo. Peggiorerebbe un mercato del lavoro già debole e renderebbe più acuta la crisi finanziaria. potrebbe condurre l'economia in un più profondo stato di recessione e porterebbe il prossimo presidente a confrontarsi con il crollo dell'industria dell'auto nei primi giorni del suo mandato. La decisione migliore è di dare la possibilità alle case automobilistiche di ristrutturarsi. Gli americani e io stesso vogliamo che il settore auto ce la faccia. Ecco perché il governo assicura all'industria automobilistica un prestito, ma a certe condizioni. Innanzitutto, hanno 3 mesi di tempo per ristrutturarsi. Se la ristrutturazione non potrà avvenire al di fuori del fallimento, i prestiti daranno loro il tempo necessario per intraprendere un processo ordinato di bancarotta assistita. Se al 31 marzo non saranno presentati dei validi piani di rilancio, il prestito verrà tolto. Non avremmo mai voluto che fossero necessarie le azioni che sto annunciando, ma vista la situazione, è il modo più efficace e responsabile per affrontare questa grande sfida. Allora, Andrea Malan, molto chiaro nel discorso di Bush, da un lato il fatto che non volesse lasciare una patata bollente a Barack Obama e dall'altro il fatto che o a marzo Chrysler e GM presentano un piano industriale serio di recupero e di rilancio, oppure gli vengono tolti questi soldi, quindi si va inesorabilmente verso il fallimento. Due domande: basterà questo piano, secondo quello che tu riesci a vedere, darà la possibilità di traghettare i due colossi verso una ristrutturazione per quanto dura e radicale? E dall'altra, non si rischia, cosa capiterà alle controllate europee? Cioè, non si rischia di creare, visto che Opel è europea, di creare una disparità con l'industria dell'auto europea, che è anch'essa in grossa difficoltà? Dunque, basterà questo piano? Probabilmente no, nel senso, il piano basta sicuramente appunto arrivare 3 mesi più avanti e a dare tempo alle due aziende, in sostanza a far digerire a tutte le controparti i sacrifici che saranno necessari, ai sindacati in primis, che dovranno, come tra le condizioni poste da Bush, accettare un cambiamento delle condizioni di lavoro in termini di salari, ma anche di assistenza sanitaria e pensionistica, che li porti al livello dei concorrenti giapponesi negli Stati Uniti in tempi brevissimi. Quindi, diciamo, con un anticipo rispetto alle concessioni che già gli sindacati hanno fatto l'anno scorso e che dovevano entrare in vigore nel 2010. Gli obbligazionisti dovranno accettare una trasformazione dei propri crediti in azioni per buona parte, il che significa una ricapitalizzazione non molto diversa, in fondo, se ci pensiamo, a quella che ha ottenuto la Fiat nel 2005, quando le banche convertirono appunto il loro prestito convertendo in azioni, e questo dovrebbe rafforzare GM Chrysler. Però la sfida è molto rilevante, e quindi il fatto che ci siano solo 3 mesi di tempo e ci siano così tante controparti da convincere, da portare a un tavolo e da appunto sollecitare, significa che il rischio del cosiddetto Chapter 11, quindi di un'amministrazione controllata, sia pure pilotata, non è del tutto svanito. La soluzione appunto sotto la presidenza Obama potrebbe essere quella di confezionare un piano di appunto fallimento pilotato e poi ripresa, che costringa, per esempio in caso di non accettazione da parte o dei sindacati o degli obbligazionisti o anche dei fornitori di determinate condizioni, che consenta un piano effettivamente più di medio periodo. Poi nel lungo periodo è molto difficile dire se i fondi saranno sufficienti o meno, dipenderà molto anche da come reagiranno i mercati, cioè se la domanda di auto, che attualmente è bloccata sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, riprenderà rapidamente o meno. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè cosa succederà alle controllate europee, in primis la Opel, è chiaro che i fondi che Bush ha sbloccato oggi sono solamente per la parte americana di GM e di Chrysler. Per quanto riguarda GM, la Opel sappiamo che ha già chiesto a sua volta dei fondi al governo tedesco e le negoziati in questo caso sono ancora in corso, andranno probabilmente avanti fino all'anno nuovo. Se GM deciderà di tenere la Opel, il che non è sicuro, nel senso che GM teoricamente potrebbe anche decidere di disfarsi della Opel, il livello di integrazione non è elevatissimo, quindi potrebbe essere una mossa strategicamente concepibile, dovrà essere a quel punto il governo tedesco a intervenire più decisamente. In ogni caso i due salvataggi dovranno andare avanti in parallelo. Sì, poi se il governo tedesco interviene deve stare attento, perché è in Europa e in Europa c'è la regola degli aiuti di Stato. Assolutamente. Non è che possa intervenire così liberamente su un'industria in qualche modo minando la concorrenza rispetto ai produttori francesi, italiani, spagnoli e insomma del resto d'Europa. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Piano quindi che passa, hanno 3 mesi, un po' più di 3 mesi queste due grandi case automobilistiche, per ristrutturarsi e risanarsi. Prima di lasciare la linea alle informazioni per chi è in viaggio, vi do un aggiornamento. Come anticipato ad inizio programma, si è dimesso il governo belga per via della vicenda Fortis, uno scandalo che ha riguardato prima il ministro della giustizia, adesso lo stesso presidente del Consiglio belga, Yves Leterme, che ha dato le dimissioni al re Alberto II, pressioni, lo dico in breve, che avrebbe esercitato anche il Presidente del Consiglio sulla Corte belga, sulla Corte di Giustizia belga, per fare in modo che venisse venduta Fortis al gruppo BNP Paribas, e quindi contro il congelamento che aveva deciso la Corte stessa. Allora, della buona notizia di oggi, forse la migliore della settimana, abbiamo detto in diretta: il presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Alessandro Ortis, ha annunciato infatti 20 minuti fa, mezz'ora fa, il calo delle tariffe da gennaio, meno 5% la luce, meno 1% il gas, 36 euro di risparmio a famiglia, con cali anche con ulteriori cali previsti nel 2009, meno 14% anche il GPL distribuito in rete. Con 115 euro di risparmio per la famiglia che lo utilizza. L'altra buona notizia, che in realtà è la matrice, la causa anche di questi cali, riguarda il petrolio. Nonostante il taglio deciso due giorni fa dall'OPEC, 2.200.000 barili di greggio in meno al giorno, il petrolio continua a scendere. Oggi è sceso anche a 33,4 dollari. Tra l'altro l'OPEC sta pensando a possibili nuovi tagli di produzione nel prossimo vertice del 19 gennaio. Ne parliamo con l'economista Marzio Galeotti, che insegna economia dell'energia alla Statale di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Dunque, due elementi. Da un lato, lei cosa pensa? Che l'OPEC ce la farà prima o poi a riportare il petrolio a 70 e 80 dollari al barile come vorrebbe, cioè potrebbe continuare a tagliare finché non vede questo prezzo risalire? Ma io credo che sia difficile dire se riuscirà a portarlo a 75 dollari come ha dichiarato. Tuttavia le riduzioni di offerta che l'OPEC sta producendo dovrebbero dare i loro effetti, non con effetto immediato, perché ora che tra una cosa e l'altra si viene a sentire sui mercati il calo dei barili, passa un pochino di tempo, per cui credo che l'effetto dal punto di vista della riduzione dell'offerta dovrebbe incominciare a farsi sentire nel corso del 2009. Più di così credo, almeno personalmente, trovo difficile dire, perché l'esperienza recente insegna che gli economisti di solito prevedono giusto, ma falliscono clamorosamente nel dire quando quegli effetti che prevedono si produrranno, e quindi anche in questo caso ci vuole molta cautela. Allora, l'altro ragionamento è più complessivo, e cioè: io capisco che, lo diciamo nella prima parte del programma, rispetto ad altri settori industriali, il petrolio ha questo leggerissimo legame con il luogo geografico di estrazione, per cui esiste di fatto un cartello, cosa che non viene permessa a tantissimi altri settori, tecnologico, delle telecomunicazioni, industriali. Il cartello decide che per stare dentro i margini taglia la produzione. Però vorrei un suo giudizio su questo atteggiamento dell'OPEC, perché un conto è dire che il petrolio deve stare intorno ai 35, 40, 45, e un conto è volerlo rivedere vicino ai 100 dollari al barile con una crisi finanziaria e economica che non si vedeva da decenni. Non c'è un po' di miopia? C'è chi dice avidità, c'è chi dice cinismo? Ma io penso che noi molto spesso guardiamo le cose, quando si tratta di petrolio, dal punto di vista del consumatore. Abbiamo una sorta di lente del consumatore che normalmente tendiamo ad utilizzare forse in eccesso per vedere questi aspetti. Intendo dire che dovremmo porci anche dal punto di vista delle esigenze di coloro che il petrolio lo offrono. Perché l'OPEC insiste da questo punto di vista sulla volontà di riportare il petrolio, il prezzo a un livello elevato? Beh, innanzitutto perché la crisi economica colpisce soprattutto le economie occidentali e relativamente meno le altre economie, anche se gli effetti, per carità, si stanno facendo sentire un po' dappertutto. E soprattutto perché questi paesi, a partire dall'Arabia Saudita, hanno in mente un target di prezzo compatibile con le loro esigenze interne, macroeconomiche. Non dimentichiamoci che i ricavi da petrolio sono essenzialmente l'unica fonte di entrata che permette di finanziare le infrastrutture in presenza di una diciamo dinamiche innanzitutto demografiche piuttosto pronunciate, e quindi quello che loro guardano effettivamente non è tanto il prezzo del petrolio, ma è il ricavo unitario pro capite, cioè l'entità delle entrate da petrolio divise per la popolazione, e diciamo è questo il livello che a loro interessa. Le prospettive di un prezzo del petrolio calante li costringe a rivedere fortemente diciamo i loro obiettivi, le loro ambizioni, se vogliamo, dal punto di vista della politica economica interna. Sì, con tutta diciamo la partecipazione verso la Russia, il Venezuela, l'Arabia Saudita, loro possono permettersi di dire no, abbiamo bisogno di un budget, di mantenere il nostro budget, perché di petrolio noi comunque lo importiamo e il prezzo comunque lo fanno loro. Sarebbe come se l'Italia decidesse, non lo so, di aumentare il prezzo dell'esportazione di macchinari o di prodotti alimentari perché dobbiamo far quadrare i conti interni. La piccola differenza è che non venderemo più niente all'estero, perché uno va a comprare macchinari dall'altra parte, loro sono un cartello e ti obbligano a comprare quei prezzi. Potrebbe esservi la conseguenza, abbiamo un minuto scarso, invece che con un petrolio così basso si blocchino le ricerche e gli sviluppi di nuovi giacimenti? Guardi, a questo proposito un recente rapporto di Cambridge Energy Research predice che nei prossimi 5 anni si avranno 5 milioni di barili in meno di minori investimenti, proprio perché si arresteranno i progetti più ambiziosi, i progetti più costosi, e quindi questo credo che sia uno degli elementi che, come dicevo prima, fa dire all'economista, se non nel 2009, comunque è difficile pensare a un prezzo del petrolio che sia, per ritornare a quello che lei diceva prima, ever decreasing, continuamente decrescente fino, diciamo, per ipotesi arrivare allo zero. Saranno appunto gli effetti sull'offerta degli investimenti, oltre e al di là delle decisioni dell'OPEC, a diciamo costituire un supporto al prezzo. Nell'immediato c'è chi dice che il prossimo supporto sono $25 a barile, chi lo sa. C'è molto psicosi sul mercato, secondo me legata primariamente all'andamento della crisi economica nei paesi occidentali, negli Stati Uniti eccetera, per poter dare una ragionevole previsione a breve termine. Certamente la volatilità non fa bene a nessuno. Questo potrebbe essere invece un problema nel medio-lungo termine, perché poi non vorremmo ritrovarci che fra qualche anno il petrolio torna a livelli altissimi perché nel frattempo non si è investito per nuovi giacimenti. Vabbè, un passo per volta. Grazie a Marzio Galeotti, docente di economia dell'energia alla Statale di Milano. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia, e a voi in ascolto l'auguro di un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17:00.